Abbiamo appena ascoltato Otherwise, che è un pezzo dei Lay No Innocence, e questo è un nuovo progetto elettronico a cura di Gabriele Chinè Miglieri e Giuseppe Cassano, e siamo in collegamento con i nostri microfoni proprio con Gabriele Chinè Miglieri, che presentiamo e salutiamo. Ciao Gabriele. Ciao. Allora, senti, come nasce questo vostro nuovo progetto? Parlacene un po'. Ma nasce essenzialmente con la pubblicazione di questo disco, Innocence. Abbiamo avuto altri progetti precedenti a questo, ma insomma è da considerarsi come un nuovo progetto. Quindi non c'è molta biografia dietro, in realtà. D'accordo, senti Gabriele, invece noi volevamo chiederti, il vostro nome è un po' particolare, Lay No Innocence, giusto? Tra l'altro è scritto con delle virgole, delle parentesi, qual è la sua origine? È un nome che avevo in testa da tempo, però pensavamo di intitolare il disco in realtà così. Poi col passare del tempo ci siamo sempre più convinti fosse il caso di utilizzarlo come nome. Ci interessava appunto perché da un punto di vista visivo è molto particolare, è quasi grafico. Ah, quindi una scelta grafica che... Cosa? È una scelta grafica quella che vi ha spinto a chiamarvi così? No, almeno in parte sì, nel senso che comunque all'occhio ha anche questo fattore in più. Certo, e invece il vostro album è uscito lo scorso dicembre e si intitola per l'appunto Innocence. E si potrebbe dire che è un'opera unica divisa in 10 momenti. Ce ne parli un po'? Sì, è un disco che appunto abbiamo lavorato proprio pensandolo come... concependolo appunto come un concept, quindi... essenzialmente i brani sono tutti legati tra loro e hanno questa componente cinematografica molto forte. Per questo abbiamo lavorato in contemporanea anche ai video e agli artwork tutti insieme. Ecco. Per renderlo... Vai, prego. No, per renderlo appunto un lavoro, diciamo, unico da... andrebbe ascoltato come un pezzo unico, anche il minutaggio appunto è limitato, sono solo 36 minuti, appunto per agevolare questo ascolto continuo. Ecco, di questa questione dell'immagine volevamo chiederti tra poco, ma la domanda che volevamo farti in questo momento era se ci parlavi un po' delle fonti sonore. Delle fonti sonore, ok, il disco essenzialmente si tratta di un disco di elettronica, poi chiaramente ci sono vari strumenti, chitarre, tastiere, sintetizzatori, come anche sample, registrazioni ambientali, è presente anche parti di contrabbasso, di piano, però il processo di lavorazione è elettronico. Quindi tutte le fonti sonore sono state rielaborate digitalmente, però o comunque trattate. Sono di natura analogica le fonti, quindi? Sì, la maggior parte sì. Anche le cose che possono sembrare più elettroniche, in realtà sì, sono di natura analogica. Perfetto. Invece noi, spulciando nella vostra breve biografia, abbiamo letto che durante i vostri live proiettate dei visual espliciti e anche pornografici. Qual è il ruolo di questi visual? Appunto come ti dicevo abbiamo lavorato anche all'aspetto visivo durante la lavorazione del disco. Il caso vuole che ci siamo approcciati a questi video erotici che erano dei Super 8 risalenti alla fine degli anni 60. Ci piaceva molto il colore, la fotografia, quindi c'è stata una rielaborazione digitale anche di questi contenuti, quindi un montaggio molto... importante da quel punto di vista, che poi ci siamo resi conto che potevamo usarli come visuals, quindi abbiamo provato questo esperimento. La prima data è stata sabato scorso al Bologna Elettrica, sì. Quindi abbiamo, cioè, abbiamo testato appunto l'impatto che questi video possono avere, comunque si legano molto bene alla musica. Poi per il resto sì, sono da intendersi come una componente fondamentale dello spettacolo che portiamo. Ecco, l'importanza dell'immagine, ci dicevi prima, si vede anche nell'artwork, giusto? Sì, anche l'artwork si tratta di foto risalenti ai primi del Novecento di questo fotografo americano che si chiama Lewis Hine, che ritrae appunto le condizioni lavorative di quegli anni nelle fabbriche americane. Ritraggono soprattutto donne e bambini, principalmente. Anche queste però sono state rielaborate digitalmente, destrutturate completamente alcune di queste foto. Certo, e citavi poco fa il vostro esordio live lo scorso 11 maggio, sappiamo che avete un'altra data in programma a Bologna, al Freak Out, il prossimo 17 maggio. Avete altre date in programma? Per adesso no, queste sono le prime due appunto per testare questa cosa, anche per testare i visuals, come funzionava tutto lo spettacolo, eccetera. Le date vere e proprie, il tour vero e proprio penso partirà da settembre, quindi in autunno. Questo è più un warm up.